Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Samuel Butler diceva che i libri più vecchi, per chi non li ha letti, sono appena usciti. Così oggi segnalo un libro non proprio vecchio, è del 2010, L'arte di dimenticare, di Anita Nair, famosa per il suo Cuccette per signora, libro del 2002 ritenuto uno dei più importanti bestseller internazionali. In questo romanzo Mira è una donna sposata che scrive manuali di bon ton per le mogli dei manager e che scopre all'improvviso di essere vissuta nella menzogna di un matrimonio non propriamente felice, ma neanche tanto infelice. Il marito difatti scompare da un party senza lasciare apparentemente tracce di sé. Mira rimane da sola nella difficile convivenza con la propria madre e con la nonna, con un figlio adolescente e con una figlia che la colpevolizza duramente. I conti non tornano e Mira deve rimboccarsi le maniche ed anche quando il marito ricompare per dare almeno delle spiegazioni, Mira deve prendere atto che tutto ormai è finito e che deve andare avanti lo stesso e senza perdersi d'animo. Il suo incontro con un professore, uno studioso di cicloni, rientrato in India dagli Stati Uniti per poter assistere la figlia, vittima di quello che viene definito un incidente, ma che si scoprirà non esserlo stato per nulla, cambierà le cose. O almeno darà a Mira la consapevolezza di una rinascita, di un distacco da quella donna che era prima che l'abbandono da parte del marito piombasse su di lei con la forza improvvisa e violenta di un ciclone. Uno di quelli studiati da Jack, il cui articolo La metafisica dei cicloni scandisce il tempo, le fasi della sua storia e della storia di Mira, fino a quando non riescono a trovare un angolo di pace, di tranquillità, in mezzo a tutto quel caos e a quel dolore, un po' come avviene con l'occhio del ciclone, all'interno del quale non vi è tempesta. Il libro è in bilico tra modernità e tradizione. Mette in luce con intensità e delicatezza allo stesso tempo, ma soprattutto con lucidità, il difficile ruolo femminile fin dal momento del concepimento, poiché ancora oggi in India la nascita di una femmina è vista come una sorta di sciagura e la pratica degli aborti dei feti di bambine è ben lungi dall'essere abbandonata. La donna inoltre, considerata da sempre inferiore rispetto all'uomo, rischia di non rendersi conto delle proprie capacità, del fatto che può operare un cambiamento in positivo senza perdere di vista la propria identità. Mira è l'esempio che il matrimonio spesso è solo un rifugio per non osare altro nella vita, un'accomodante situazione che protegge da tante cose, ma che soprattutto non permette la vera realizzazione di se stesse come donne con un ruolo importante nella società. Spetta a lei dimostrare che si è capace di diventare padrone del proprio destino e che in forza di questo si può rinascere emotivamente consegnandosi ad un nuovo amore con nuove consapevolezze tutte luminose. L'arte di dimenticare di Anita Nair per Guanda. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.